La campagna elettorale per la Presidenza della Repubblica e il rinnovo della Camera dei Deputati sta volgendo al termine nella più assoluta tranquillità. Domenica 24 ottobre, oltre 4 milioni e mezzo di tunisini riconfermeranno tanto il mandato, sarà il quarto, a Zine El Abidine Ben Ali, quanto alla schiacciante supremazia del suo partito, il Raggruppamento Costituzionale Democratico. Segno che il proseguimento del progetto di modernizzazione della Tunisia, voluto da Ben Ali e asse portante del suo programma elettorale, trova consensi più che ampi. A Ben Ali si contrappongono i leader di 3 dei 5 partiti presenti in Parlamento: Mohamed Ali Alouani, dell'ufficio politico del movimento Etat Jadid, unionista, 5 seggi, Munir Beji, presidente del Partito Social Liberale, 2 seggi, e Mohamed Bouchicha, presidente generale del Partito di Unità Popolare, 7 seggi. Quali i punti di forza dei rispettivi programmi? Per Etat Jadid è fondamentale la promozione degli investimenti e il miglioramento delle infrastrutture, allo scopo di ridurre il tasso di disoccupazione. I socialliberali, dal canto loro, puntano sull'occupazione, sullo sviluppo dell'iniziativa privata e sul sostegno dei piccoli agricoltori. Progresso per tutti è invece la parola d'ordine del Partito di Unità Popolare, che propone un considerevole numero di riforme riguardanti la politica, l'economia, la cultura ed il sociale. La campagna elettorale si concluderà alla mezzanotte di venerdì 22. Eccezionali le misure di sicurezza. Franco Chevegatti, di Reporter Associati per Radio Amismet.